24 mattino. Ben ritrovati, cari ascoltatori, sono le 8:17 minuti, è il momento di parlare di economia. Soldi e dintorni. Buongiorno Deborah Rosciani. Buongiorno, buongiorno a tutti. Vedo già delle nuvole all'orizzonte, non mi piacciono per niente. E quindi oggi parliamo di ombrelli, il mercato degli ombrelli. No, scherzate. Ombrelloni. Di ombrelloni. Di ombrelloni. Che certe giornate non di è acquazione... forse a tema con il tempo previsto, però insomma... Qualcuno allora, ci sta già andando forse al mare? Direi di sì. Io penso che qualcuno si sia anche posto l'obiettivo, dato che abbiamo di fronte a noi questo lungo ponte che ci porterà fino alle 2 giugno, per cui oltre a questo ponte però diciamo che date anche le temperature che qualche città hanno toccato, ha già raggiunto negli certo. ultimi giorni, l'estate possiamo dire sia praticamente arrivata, per fortuna, insomma, perché poi l'inverno secondo i miei gusti personali almeno era durato anche fin troppo. Alessio, ecco, l'estate è praticamente arrivata, ma i prezzi delle spiagge già scottano da un po', perché nonostante la crisi il caro ombrellone è già sotto la lente delle associazioni dei consumatori, che hanno rilevato aumenti anche se contenuti e anche se con qualche città in controtendenza, soprattutto per gli stabilimenti balneari vicini alle grandi città. E questo è il tema di cui parliamo stamattina a Soldi e Dintorni. Ringrazio e saluto di essere con noi il come dire, monitor per definizione di questa situazione, Rosario Trefiletti, presidente di Federconsumatori. Presidente, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. E buongiorno anche a Renato Papagni, che invece è presidente di Asso Balneari. Presidente, buona buongiorno, giornata anche a lei. Buongiorno, eccoci. Allora, io comincerei con Trefiletti, cominciamo un po' con l'ultima rilevazione di Federconsumatori. Allora, che cosa avete rilevato nella vostra ultima indagine annuale rispetto all'anno scorso? Si sono alzati i prezzi per i lettini, per gli abbonamenti giornalieri e mensili di ombrelloni appunto e sdraio. Presidente, cosa ci racconta? Ma guardi, lei prima aveva sintetizzato molto bene, e cioè quest'anno, come ogni altro anno per la verità, il nostro osservatorio pluriennale, abbiamo rilevato che ci sono stati anche quest'anno, pur essendo in presenza di una grave crisi economica, una riduzione della domanda e via dicendo, ci siamo trovati con alcuni ritocchi importanti per quanto riguarda i servizi balneari. Certo, sono molto contenuti rispetto agli aumenti che avevamo registrato negli altri anni. Quest'anno parliamo di aumenti che toccano il 2-3%, e per la verità anche in alcuni casi, in alcuni diciamo così, in alcuni strumenti dei servizi balneari abbiamo visto anche in controtendenza delle riduzioni. Per esempio, ecco, ci faccia qualche esempio di qualche città, perché io immagino che per esempio i prezzi si siano mantenuti stabili, ovviamente nelle località balneari più rinomate. Nelle altre città invece cosa è successo? No, guardi, abbiamo invece rilevato che per la verità il nostro è un campione nazionale, quindi tiene una media, è la solita media anche di Trilussa, chiamiamolo così, di Trilussa, voglio dire, ma noi abbiamo un campione assolutamente spalmato sul territorio nazionale. Abbiamo verificato in questo campione che i ritocchi sono essenzialmente verso gli stabilimenti, diciamo così, più costosi, più di qualità, mentre per quelli diciamo di media o bassa qualità i ritocchi sono stati ancora inferiori. Quindi questo ha comportato appunto questo aumento medio del 2-3%, che per la verità ha visto più che altro gli ombrelloni, gli abbonamenti giornalieri che sono appunto lievitati, mentre invece, ecco, queste le controtendenze, la sdraio, che sembra essere una cosa che non vuole più nessuno, c'è una forte riduzione della richiesta. Ci piace di più il lettino, Presidente, siamo più comodi, parliamoci chiaro. Sì, esattamente. No. E la seconda cosa molto importante è che questo è molto coerente con la situazione economica, gli abbonamenti per tutta la stagione si sono ridotti nella richiesta, almeno del 5-6%, sono diminuiti, proprio perché c'è una richiesta inferiore, visto che le famiglie non è che tutte possono permettersi in questa fase di borsare dagli 800 a 1200 euro, che è la media, che sono le medie degli abbonamenti stagionali. E credo che tra l'altro siano delle considerazioni di cui è ben consapevole anche il presidente di Asso Balneari, poi Trefiletti ovviamente la faccio reintervenire di nuovo e concludere. Renato Papagni, allora, Asso Balneari, la crisi morde. Noi tra l'altro avevamo già cominciato ad affrontare il tema dei prezzi agli stabilimenti stabilimenti balneari lo scorso anno, quando la crisi davvero cominciava a mordere. È stata un'estate un po' complicata e mi ricordo che avevamo raccontato delle numerose iniziative che l'associazione aveva messo in campo per dare un aiuto alle famiglie, almeno a trascorrere qualche weekend al mare in serenità. E mi ricordo per esempio sconti fino al 50% per abbonamenti di metà giornata, in genere dopo le 15, tagliandi e coupon presso bar o gelaterie da presentare per avere ingressi omaggio, riduzioni anche per gli over 60. Insomma, per affrontare la crisi anche voi vi siete dati da fare. E quest'anno come si presenta questa stagione? Presidente Papagni, sì, ci racconta delle cose che evidentemente risultano da qualche caso specifico. Noi come categoria, ma insomma anche in sintonia con tutto il gruppo dei balneari, abbiamo fissato una regola: nel momento delle crisi non si fanno aumenti, e noi abbiamo mantenuto le tariffe fisse del 2008, anzi abbiamo incentivato ancora di più quei pacchetti che l'altro anno sono stati un test importante. Quindi assolutamente non aumenti, assolutamente non crescita di prezzi, e il caro ombrellone, permettimi, ma insomma quest'anno c'è di tutto meno che il caro ombrellone. No, ma infatti la rilevazione credo che Trefiletti lo ammettesse anche molto, molto tranquillamente. Penso che gli aggiustamenti a rialzo siano laddove, come dire, anche la spiaggia lo consente, e anche la frequentazione di un determinato tipo di società lo frequenti. Ma anche i servizi, cioè c'è da fare una valutazione molto importante. Magari qualche stabilimento ha migliorato i servizi, non so, ha messo un'attività sulla spiaggia come optional, ha realizzato una piscina e quindi dà un servizio in più sulla spiaggia, e quindi rispetto magari all'anno precedente deve recuperare questo investimento. A 5 euro quest'anno magari lo affitta a 6 o a 6 e mezzo, ma insomma è perché offre ben altri servizi, non certamente perché abbiamo stabilito di fare aumenti. Insomma, saremmo suicidi in questa politica. No, ma io spero che, Presidente, non sia passato questo messaggio da parte nostra. Sì? No, la battuta del caro ombrellone, siccome paga bene, insomma... ci conceda la consueta licenza giornalistica. Però, Presidente, io una curiosità me la devo togliere. Faccio una considerazione con Trefiletti, perché secondo la ricerca di Federconsumatori, una famiglia di 4 persone, 2 adulti e 2 bambini, per passare una giornata a mare, in media spenderà 68 euro, Presidente. Io ho fatto un po' così l'analisi di tutte le voci che avete messo in questo bilancio: il parcheggio, i panini, i gelati, i caffè, eccetera. Hanno tutti queste voci dei costi ragionevoli, però quando vedo che 6 bottiglie d'acqua da mezzo litro arrivano a costare anche 10,80 euro, un po' mi stupisco. Sì, ci abbiamo questo problema. Sembra che di secondaria importanza, ma sulla spiaggia mantenere un servizio di ristorazione o mantenere un servizio di bar o di servizio di accoglienza per fare un panino è purtroppo assolutamente molto più costoso che tenerlo in un bar o in una ristorazione qualsiasi. Abbiamo necessità di improntare le attività stagionali, quindi comporre, mettere in manutenzione, cioè i costi purtroppo noi li dobbiamo concentrare per un'attività del genere in 3 mesi, nei famosi 100 giorni. Sì, questo diciamo, sicuramente lo comprendo. E quindi è chiaro che specialmente nelle più piccole delle consumazioni, l'incidenza di questo costo purtroppo capiamo che è rilevante, insomma. Però non è un voler fare speculazione, è veramente, insomma, quando si riassetta, come si dice, un bar di spiaggia, i costi poi vanno distribuiti. Ma infatti, massimo rispetto, però insomma, l'indicazione che possiamo dare, concludo con Trefiletti perché ho terminato il tempo a disposizione, portiamo l'acqua da casa. Sì, questo è infatti un consiglio che diamo, e molte famiglie per la verità si portano da casa tutto, e lasciamo perdere anche quando si portano da casa l'ombrellone, perché sembra che ormai non sta solo diventando di moda, ma sta diventando quasi una, diciamo così, una condizione strutturale. Presidenti, lo dico al plurale, così vi saluto entrambi, vi auguro una buona giornata, speriamo che questa stagione sia un po' serena per tutti, anche perché insomma, data la crisi che morde, come sempre diciamo, magari un po' più famiglie del solito andranno in spiaggia questa nelle nostre spiagge italiane, rinunciando magari ad andare all'estero, e quindi cerchiamo di fare in modo che sia una spesa ragionevole per tutti. Alessio? Perché non facciamo anche una bella puntata su, sentivo il lettino, tu preferisci lettino sdraio, perché sì, sono convinto che d'estate animerebbe i dibattiti. Mi viene male la bronzatura, Alessio, quindi devo stare tutta distesa. Però so che questo è un dibattito che sulle spiagge ogni anno insomma viene rilanciato. Sì. Debora, allora, fin qua, ecco, cose serie, e cose serie anche alle 12. Alle 12 Salvadanaio, facciamo fondi di investimento che stanno ritornando verso le economie asiatiche, però io sarò in diretta anche alle 10 per seguire le considerazioni certo, finali speciale di Radio 24 della Banca d'Italia, sì. Sulle parole di Draghi. 8:33 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Riprendiamo con le notizie di oggi, di questa mattina. Il presidente statunitense Obama ha incontrato alla Casa Bianca nella notte italiana il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen. Sono un forte sostenitore della creazione di due stati, ha detto Obama, e sono fiducioso sul fatto che Israele riconoscerà la necessità di accettare la soluzione dei due stati. La trattativa per la Opel, il gruppo austro-canadese Magna, è in pole position, a dirlo il ministro del lavoro tedesco Olaf Scholz. Il ministro ha parlato al quotidiano Berliner Zeitung. Nel frattempo il governo tedesco ha fissato per oggi entro le 14 la decisione. Mai avuto rapporti piccanti con le minorenni, ha assicurato Berlusconi, che ieri è tornato ad attaccare anche i giudici. Intanto il leader del Partito Democratico, Franceschini, ha ribadito le sue scuse ai figli del Presidente del Consiglio, ma ha rivendicato una battaglia sui valori. E poi c'è un'ultima ora che arriva dall'Afghanistan, c'è stato un scontro a fuoco che ha coinvolto anche militari italiani e c'è un militare italiano che è rimasto lievemente ferito ad un piede nell'area di Belo Morghab, però insomma un incidente di piccolo rilievo fortunatamente per i nostri militari in Afghanistan. 349-238-6666 per i vostri sms. E c'è chi ci ha scritto a proposito di quello che ci siamo occupati prima con Deborah Rosciani sul i prezzi, le tariffe degli ombrelloni e quant'altro nelle località balneari. Arrivano prezzi di acqua, gelati, ombrelloni, focaccine con la mozzarella e, insomma, avete sentito, il presidente di Asso Balneari ha rassicurato dicendo che non ci saranno aumenti, anche perché insomma c'è la crisi e tutti ne sono convinti, però poi evidentemente la situazione non è così semplice a livello locale, nelle varie località per l'appunto. Adesso invece vogliamo parlare di scuola. Ieri, dopo il Consiglio dei Ministri, abbiamo saputo che il governo ha approvato una riforma degli istituti tecnici, un nuovo tassello nella riforma scolastica. Aggiungo che insomma, speriamo che non si aggiunga nuova incertezza, visto che di governo in governo di riforme se ne susseguono incessantemente. Oggi titoli più inglese: scienza cambia dopo 80 anni la scuola tecnica, e poi qualcun altro mette l'accento sul fatto che ci sono a rischio 8.000 cattedre perché si razionalizza e si diminuisce un po' anche forse il numero delle cattedre, ma non è esattamente di questo, sempre di scuola parliamo, che però di cui però ci vogliamo occupare. Parliamo sempre di una cosa che riguarda la scuola. Iniziamo sentendo cosa ha detto la Gelmini, il ministro Gelmini, al termine del Consiglio dei Ministri. È nata una polemica con riferimento ai dirigenti scolastici. Io confermo la presenza all'interno della scuola di un numero circoscritto, ma che comunque esiste, di dirigenti che fanno politica, che creano inutilmente allarmismi che poi si riflettono negativamente nelle famiglie e nei genitori. Io ho il massimo rispetto per coloro che svolgono il proprio ruolo con rispetto dell'istituzione scuola, sia che si tratti di insegnanti e che si tratti di dirigenti, ma trovo scorretto utilizzare la scuola per fare politica. I dirigenti che intendono fare politica si candidino e lo facciano all'interno delle istituzioni politiche e non all'interno della scuola. Presidi che fanno politica, ha detto il ministro Gelmini, ma che cosa è successo? Perché lei qua non lo spiegava, forse lo aveva spiegato prima, ve lo raccontiamo noi naturalmente di questo di cui vogliamo parlare anche questa mattina. Allora, un gruppo di presidi del Lazio ha scritto una lettera ai genitori degli studenti che frequentano le scuole di cui loro sono dirigenti. L'oggetto di questa lettera era la grave situazione finanziaria della scuola. Prima di tutto vorrei chiedere a Paolo Mazzoli, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Per l'appunto preside e per l'appunto presidente dell'ASAL, questa associazione delle scuole autonome del Lazio, voi dite non è un sindacato, è un'associazione di scuole. Quante scuole, prima di tutto, voi rappresentate in Lazio? 269, se non sbaglio. Sì, ieri c'è stato dell'assemblea plenaria della nostra associazione abbiamo visto che sono un po' aumentati, stiamo a 275. Su quante scuole nella regione? Così ci facciamo 900, 900 e qualcosa, circa il 25%. Quindi quasi il 30%, 25% delle scuole. Allora, non è un numero insomma così di scarso rilievo, anche se l'elenco dei dirigenti che appare in calce alla vostra lettera è di una ventina, forse 25. Quindi... No. Mi scusi, su questo sì. volevo chiarire, in calce alla lettera c'è l'elenco dei dirigenti che costituiscono il comitato di coordinamento della associazione. Ah, perfetto, non di tutti quelli che hanno firmato la lettera. No, erano presenti alla conferenza stampa in cui noi abbiamo illustrato la lettera. Comunque, insomma, un nucleo corposo di scuole del Lazio, i cui presidi hanno sentito il bisogno di scrivere questa lettera. Allora, ci dica proprio cosa c'è scritto in questa lettera. In breve, abbiamo deciso di scrivere anche ai genitori, dopo aver scritto al ministro il 5 febbraio e anche in altre occasioni, sul fatto che per alcune questioni importanti non abbiamo più un euro. In particolare quest'anno è la prima volta che il Ministero, almeno finora, non ha assegnato alcunché per il funzionamento ordinario della scuola. È un piccolo budget che viene assegnato a tutte le scuole per le spese ordinarie quotidiane. Non abbiamo i soldi per fare le visite fiscali che sono obbligatorie da quando con il ministro Brunetta le ha rese tali, direi giustamente perché così si controlla più metodicamente l'eventuale assenteismo dei docenti. Non abbiamo i soldi per fare i corsi di recupero che partono tra un po'. Sono corsi di recupero estivi destinati proprio a quegli studenti che non potendo provvedere in altro modo verrebbero a scuola per una quindicina di ore per tentare di recuperare le loro lacune. E normalmente questi corsi costano 50 euro l'ora, non abbiamo assolutamente avuto nessun tipo di stanziamento per avviarli. E quindi abbiamo pensato, dopo averle provate tutte, abbiamo pensato che fosse importante avvertire i genitori del fatto che una certa attenuazione della qualità del servizio potrà vedersi perché ci sono questi problemi anche per le supplenze e quindi questi sono diciamo i motivi più urgenti per cui abbiamo scritto. Un'ultima cosa, se mi permette, a proposito della politica. No, aspetti, allora su questo ci arriviamo perché vorrei andare per ordine. Allora, salutiamo anche Valentina Aprea, buongiorno. Buongiorno. Ex sottosegretario buongiorno, alla pubblica istruzione e onorevole del PDL, attualmente presidente della commissione istruzione. Senta, Aprea, lei fra l'altro nel mondo della scuola credo che sia stato dirigente, adesso sarà in aspettativa visto che fa politica, proprio preside. Certo. Esatto. Sono donna di scuola. E quindi insomma parliamo con chi questa realtà la conosce da vicino, oltre che occuparsene per questioni naturalmente politiche. Allora, che ne pensa di quello che scrivono i presidi? Poi arriviamo anche al tema del fare politica. Ha sentito, guardi, mancano i soldi per i corsi di recupero, per le visite fiscali su cui Brunetta tra l'altro ci tiene molto. No, guardi, io vorrei ritornare sul gesto che hanno fatto i presidi, in particolare l'associazione di scuole, e me ne rammarico perché noi abbiamo bisogno di queste reti di scuola e di associazioni di scuola. Non abbiamo bisogno, e credo che sia difficile non condividere la valutazione del ministro, anzi la condivido e la faccio mia. È un gesto da condannare quello che hanno fatto questi dirigenti e questa associazione, e che si configura molto di più come una protesta a fondo politico che non come un'azione per governare meglio le scuole, appunto attraverso anche la collegialità e quindi le reti di scuola. Però mi scusi perché su questo scuole. Aspetto sì. No, scusi, soprattutto alla vigilia di un momento così importante e a fine anno scolastico, ma mi scusi, ma ci vengono a parlare di soldi per le supplenze, ma l'anno scolastico è finito. Beh, i corsi di recupero però bisognerà farli. Mi scusi Aprea, però perché poi vorrei entrare, mi scusi, vorrei entrare anche nel merito, non abbiamo moltissimo tempo, poi vorrei un suo commento anche sul merito delle questioni, però visto che lei ha voluto partire proprio dalla questione che ha posto il ministro Gelmini, giustamente dal suo punto di vista, però io le dico, ma tutto sommato, visto che i presidi sono ormai appunto dei dirigenti, insomma devono gestire le risorse economiche, sono un po' come degli amministratori delegati, mi domando, di imprese che a un certo punto sentono il bisogno di comunicare con i loro utenti, se la vogliamo mettere su questo piano, che male c'è? No, va tutto male perché innanzitutto è proprio il dirigente di una scuola autonoma deve imparare ad assumersi le responsabilità, le condizioni date. Certo, piacerebbe a tutti non avere vincoli di bilancio, poter gestire qualsiasi cosa, e certo la situazione è delicata soprattutto se i finanziamenti devono servire per azioni obbligatorie, ma allora di questo si parla nelle conferenze di servizio. Ma allora chiaro, Aprea la sua posizione. Si parla con i dirigenti del Ministero, che sono tanti, sì. Non si scrivono lettere ai cittadini, agli utenti, alle famiglie per creare allarmismi. Un attimo che sentiamo allora sul merito della questione, sentiamo Gelmini che tutto sommato sul merito non dà tutti i torti a questi prestiti, sentiamo. Ci troviamo di fronte molti problemi di natura economica, rispetto a questi occorre il senso di responsabilità da parte di tutti, e non è un caso che nelle scuole dove ci sono buoni dirigenti, prima di spendere risorse in progetti per carità rispettabili ma non indispensabili, le risorse vengono spese per i bisogni primari. Ci sono altre realtà in cui non mancano moltissimi progetti, ma alla fine mancano poi le risorse per la carta piuttosto che per il toner delle stampanti. Occorre saper scegliere delle priorità, e fare i dirigenti significa avere questa sensibilità e questa abitudine. È troppo comodo ogni volta scaricare le responsabilità sul Ministero piuttosto che sugli uffici scolastici regionali. Mazzoli, ricordo presidente dell'Associazione delle Scuole Autonome del Lazio, ha sentito un po' qual è la posizione del governo. Sì, un po' di problemi economici ci sono, però voi invece di scrivere delle lettere o magari di portare avanti iniziative magari fantasiose e non necessarie, dovreste imparare a gestire meglio. Mi fa degli esempi, voi avete razionalizzato la spesa, non so, mi faccia degli esempi concreti così gli ascoltatori si convincono che non state scialando, se questa è la vostra posizione. Guardi, noi facciamo questo ormai da diversi anni, cioè ridurre al massimo tutto quello che non è necessario. Va detto che alcuni progetti molto attentamente selezionati che portiamo avanti sono fatti con soldi che provengono dai genitori, e quindi potremmo benissimo toglierli, ma è una decisione che nei consigli di circolo e di istituto è stata presa con un finanziamento che è stato deciso, diciamo, con una forma di autotassazione, di contributo volontario, che non può invece spostarsi quel contributo verso gli obblighi normali e quotidiani delle scuole. Cioè, non posso con quei soldi pagare le supplenze o comprare il materiale che serve per la vita amministrativa della scuola, neanche se volessi. E volevo anche dire all'onorevole Aprea, che io ho avuto il piacere di conoscere anche in un'audizione che recentemente c'è stata, io sono totalmente con lei d'accordo sul fatto che il dirigente deve assumersi le sue responsabilità e cavarsela rispettando i vincoli di spesa. Il problema è che quando questo vincolo è assoluto, cioè è una imputazione pari a zero, nessun dirigente può riuscire a fare questa cosa. Per cui, capisce, stiamo a livelli, diciamo, di mancata dirigenza. La dirigenza deve fare al meglio con quello che ha, a patto che abbia. È chiaro, lei, insomma, è chiaro. Aprea, le chiedo in 30 secondi di chiudere, perché poi dobbiamo dare la linea al traffico e quindi non abbiamo moltissimo tempo. Però, insomma, il Presi dice: è giusto il metodo che voi proponete, però quando le risorse sono pari a zero è difficile. Il gesto è da condannare, perché non si scrive una lettera. Sì, questo però l'ha già detto. Andiamo. Importante. Sì. Noi lavoreremo per dare alle scuole più poteri e più responsabilità, ma introdurremo anche una maggiore valutazione, e quindi ciascuno dovrà rispondere alla fine delle scelte effettuate, soprattutto con riferimento un'ultima ai risultati. Cosa, Aprea, mi scusi perché avevo pochissimo tempo, una cosa sollevata dai presidi del Lazio, ma anche ieri a Belluno da un altro nucleo di presidi, è quello dell'edilizia scolastica, perché dicono se si tagliano le classi aumenta il numero di studenti nelle classi, in alcuni casi c'è qualche rischio in più, siccome, insomma, tra l'altro qualche mese fa c'è stato il crollo, lo ricordiamo tutti, alla scuola di Torino, dove c'è stato anche un morto. Sull'edilizia scolastica ci sono degli stanziamenti in arrivo? Sicuramente sì, ma ci sono anche responsabilità decentrate, e quindi invito i dirigenti scolastici a richiedere immediatamente tavoli di confronto con gli assessori provinciali e regionali e studiare le soluzioni migliori a livello territoriale. Non Benissimo. Possiamo chiedere federalismo, chiedere decentramento. E credo che quello di ieri a Belluno fosse proprio un tavolo con la provincia, onorevole Aprea. Sanno bene sì. A cosa dovranno far fronte, perché non si può chiedere di avere responsabilità decentrate e poi imputare tutte le responsabilità a livello nazionale. Onorevole Aprea, ripeto che quello di ieri di Belluno era un tavolo proprio con la provincia, i sindacati e i presidi, comunque quindi un tavolo decentrato, però lei ha detto qualche fondo in arrivo ci sarà su questo delicatissimo aspetto che è quello dell'edilizia scolastica. Io vi ringrazio entrambi, Valentina Aprea, onorevole, e Paolo Mazzoli, preside. Grazie per essere stati con noi. 8 e 49 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati. Allora, come detto, cerchiamo di allungare un po' lo sguardo su questo fine settimana che inizia oggi, per qualcuno sarà già iniziato le vacanze, qualcuno sarà già fortunatamente, beato lui, sui luoghi di vacanza, in villeggiatura, chissà dove, qualcun altro invece aspetta queste ultime ore di lavoro per partire nel primo pomeriggio del venerdì e stare fuori almeno fino a martedì prossimo. Allora, cominciamo subito con Santo Puccia, vicequestore aggiunto della Polstrada. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, cosa si può dire su questo weekend? Sarà da bollino rosso oppure ancora no? Poi sono, insomma, dizioni così, espressioni giornalistiche, ma insomma, per dire, ci sarà un po' di momenti di difficoltà. Cosa prevedete? Ma diciamo questo fine settimana e quindi questo ponte sicuramente sarà caratterizzato da traffico molto intenso, in particolare nella giornata, nel pomeriggio odierno e nella mattinata di domani, per gli spostamenti verso le località di villeggiatura. In particolare noi immaginiamo che il versante Ligure, la riviera Adriatica e anche la dorsale della 1 e da Milano verso Napoli saranno le tratte maggiormente trafficate. Anche la 3 Salerno-Reggio Calabria sicuramente vedrà un traffico maggiormente intenso in direzione sud. Poi la giornata nella quale potrebbero concentrarsi maggiori rientri sarà quella del 2 giugno, in particolare nel pomeriggio e nella serata. E a questo proposito il consiglio è proprio quello di evitare di ritardare le partenze, di concentrare le partenze proprio all'ultimo momento, quindi approfittare magari della giornata del 2 giugno proprio per eventualmente anticipare le partenze al mattino, cioè rinunciare a qualche mezz'ora di vacanza, però guadagnando qualche ora forse di coda in meno sulla strada del rientro. Questo è il consiglio. Bene, allora grazie a Santo Puccia, vicequestore aggiunto della Polstrada, ci ha insomma così dato qualche indicazione, ma insomma era prevedibile che ci sarebbe stato un po' di movimento e che il giorno di martedì soprattutto sarà quello critico per il rientro. Vorrei salutare anche Achille Pannellatore, buongiorno. Buongiorno a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Di professione meteorologo. E faccio le previsioni in un servizio meteo privato dall'Astronautica d'Imperia e nel porto turistico di Sanremo che si chiama Porto Sole. Senta, lei dopo il famoso ponte, quello del 25 aprile, in cui le previsioni di brutto tempo sconsigliarono forse molti a mettersi in viaggio, contribuendo secondo gli albergatori poi al flop turistico, in particolare in Liguria, lei aveva detto basta previsioni, adesso faccio sciopero perché non potete prendervela con noi facciamo solo il nostro lavoro, se poi sbagliamo, infatti quel weekend non fu brutto il tempo e quindi qualcuno disse si poteva evitare, però è il vostro lavoro e l'errore ci può anche stare. Le chiedo, si è ripreso dallo shock? Ma guardi che francamente io ho fatto uno sciopero di solidarietà per gli altri, perché sì, noi l'errore non l'avevamo fatto proprio per niente, solo che io essendo dipendente di un privato ho potuto fare questo sciopero, invece gli altri dipendenti o dell'aeronautica o di altri centri un pochino più severi non hanno potuto, quindi io ho voluto un pochino sensibilizzare gli altri e tra l'altro ma la mia era solo una battuta in realtà, ora... certo, però bisogna dire che questo fino a 4 giorni, la previsione è stata sbagliata, in questo devo essere sincero anche da noi, perché si vedeva pioggia per Pasqua e Pasquetta, invece dal terzo giorno ad avvicinarsi alla Pasqua avevamo cambiato rotta. La perturbazione ha preso un'altra direzione, quindi il tempo è stato buono. Va bene, però non torniamo perché sennò poi si riapre una polemica. Invece mi interessa sapere proprio in questo weekend, dove tra l'altro anche stavolta le previsioni non sono brillanti, ci dobbiamo fidare? Qualche goccia di pioggia è prevista addirittura anche tra sabato e domenica. probabilmente sono abbastanza buone per il weekend, secondo me andrà meglio invece per le giornate di lunedì e del 2 di giugno per quest'altro ponte. Invece per sabato e domenica un po' di instabilità in entrata da nord-est, un'infiltrazione di aria fresca causerà un pochino di instabilità, quindi magari più si marcata, può ritardare di qualche ora la partenza e puntare, sì, sulla domenica lunedì. Che in questa stagione, tardo primavera, primi riscontri dell'estate, un pochino di instabilità ci può sempre essere. Poi quando avremo l'anticiclone delle Azzorre stabile, quindi giugno, luglio, agosto, allora qui il tempo sarà decisamente meglio, ma fine primavera, infiltrazioni fresche da nord-est possono portare sempre a un temporale pomeridiano. Non siamo ancora in piena estate, insomma, per cui qualche momento di brutto tempo ci può stare. Scende qualche fulmine, qualche poi tutto si risolve e tutto torna come prima. Ecco, questa sarà Pennellatore, la devo salutare perché abbiamo due minuti, grazie. E volevo salutare anche un altro ospite, Sara Ragusa, autrice di Turisti in Braghe di Tela, oltre 100 proposte e consigli per andare in vacanza nonostante la crisi, un tema che meriterebbe un'intera puntata. Ce ne vuol dare buongiorno? No, buongiorno a tutti. Ce ne vuol dare due o tre di questi consigli? Sì, allora io in questi giorni posso consigliarvi di andare a scoprire una Liguria diversa, ad esempio in un ecovillaggio che è quello di Torri Superiore, che si trova nell'entroterra di Ventimiglia, che è un paesino medievale che è stato disabitato per tantissimo tempo. E poi ripetiamo? Torri Superiore si chiama. Perfetto. Secondo consiglio? Secondo consiglio, scoprire l'Italia attraverso i treni, gli antichi treni recuperati. Ad esempio c'è una ferrovia nella Val d'Orcia che fa un anello intorno a Siena e si possono scoprire i paesini come Asciano, Trequanda, tutti quei paesini meravigliosi. Bellissimo questo, secondo in treno una, nella Val d'Orcia nel senese. Terzo consiglio, flash? Terzo consiglio flash, una gita a Mantova però diversa, una gita a Mantova visitando la città in bicicletta e dormendo in un bellissimo ostello in riva al Mincio, nel parco naturale del Mincio. Bello anche questo. Purtroppo non possiamo andare avanti, sarebbe molto interessante. Io ricordo Sara Ragusa, per chi volesse andare più oltre, è autrice di Turisti in Braghe di Tela, oltre 100 proposte e consigli per andare in vacanza nonostante la crisi. Grazie anche a lei, ci fermiamo qua. 8:56 minuti, grazie ad Alessandro Marcotulli, Laura Marchesi in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Un saluto anche da Alessio Maurizi. Buona giornata.